Pod Power. Net sounds worth listening. Sono le ore 11.33 di lunedì 14 aprile 2005. Martedì scorso 9.312.000 spettatori hanno visto su Rai 1 Affari tuoi. Se siete uno di loro, avete sbagliato podcast. Pod Power è una guida settimanale su come usare internet per ascoltare qualcosa di più interessante di quello che propongono i media tradizionali, come per esempio Arte Radio. Arte Radio.com. Di Arte Radio ho già parlato in passato nel mio podcast precedente, Pendo Deliri. Ma in quel caso si trattava di un punto di vista personale, quasi affettivo. E su Pod Power in teoria mi ero riproposto di avere un approccio più distaccato e di mantenere un simulacro di obiettività. Eppure in questo caso mi sento lo stesso di dire che Arte Radio è il futuro della radio. E ora vi spiego perché. Tutti i mass mediologi del mondo, normalmente piuttosto litigiosi su tutto, sono però d'accordo su un fatto. E cioè che se vogliamo invertire la tendenza e fare in modo che i mezzi di comunicazione aggiungano qualcosa alle nostre vite invece di sottrarre, questi dovranno garantire piena libertà sia a chi crea i mezzi di comunicazione sia a chi ne fruisce. Sì, perché chi crea deve essere libero dagli schemi, libero dai format e libero dai modelli di business. Chi fruisce, invece, deve a sua volta poter scegliere liberamente il luogo della fruizione, il momento temporale della fruizione e il segmento che lo interessa direttamente. Arte Radio, se dovessimo utilizzare il trito e ritrito linguaggio della derelitta New Economy, potrebbe essere definita una web radio on demand. In italiano questo dovrebbe significare che la puoi sentire sul web, ma che te la puoi anche portare dietro, a pezzi, per così dire, sul tuo lettore MP3, ma questo di per sé non farebbe di Arte Radio una radio poi così innovativa, per esempio all'epoca del podcasting, se non fosse per il fatto che anche i contenuti di Arte Radio sono straordinariamente innovativi, integralmente consacrati alla realtà che raccontano e alla creatività degli autori. Contenuti così liberi dai formati radiofonici tradizionali da far parlare non di programmi, ma semplicemente di suoni. Un truc aussi, une espèce de violon. Ça, c'est pas mal aussi, là. Une caisse de son avec un bâton de hockey. E a ben vedere non ci si poteva certo aspettare nulla di diverso da una radio sorta da una costola di Arte TV, il canale televisivo franco-tedesco nato dalla forte volontà dei governi francese e tedesco, una televisione che già da sola costituisce una sorta di festival permanente dell'audiovisivo europeo e che rappresenta ormai un punto di riferimento essenziale della cosiddetta eccezione culturale europea. Coulisses de Nouvelle-France, une des plus importantes coproductions de l'histoire du cinéma canadien. Une distribution plus qu'impressionnante vous fera partager les secrets du tournage. Sylvain Gir è il responsabile editoriale di Arte Radio e, come ascolterete, ha le idee piuttosto chiare in materia di futuro della radiofonia. Per questo ho pensato di chiamarlo e di rivolgergli alcune domande sul tema. Buongiorno Sylvain, grazie di essere con noi. Forse potremmo cominciare con qualche informazione sulla nascita di Arte Radio, sul suo ruolo nel sistema di Arte e sulle sue prospettive future. Come sai, Arte è un canale televisivo culturale europeo creato dai governi francese e tedesco. Tra l'altro, grazie a un accordo con la RAI, che è stato recentemente rinnovato, Arte diffonde una parte dei suoi programmi anche sui canali di RaiSat. Negli ultimi anni Arte ha sviluppato la propria presenza su internet, anche per sfruttare meglio le nuove tecnologie. Così Jérôme Clément, che è il presidente di Arte, nel 2002 ha voluto realizzare una radio. Ed è nata Arte Radio. All'inizio avevamo uno staff di sole 2 persone a libro paga, il sottoscritto, che già si occupava di radio da parecchio tempo, e Christophe Roux, un vero e proprio genio dell'ingegneria del suono, che garantisce la qualità tecnica delle nostre trasmissioni. Quando 2 anni fa Arte ci propose di realizzare questo progetto, ci lasciò sostanzialmente carta bianca. Così decidemmo di inventare una radio che non esisteva né su internet né via etere. Successivamente Arte ha continuato a sostenere questo progetto, come testimonia l'adeguamento dei mezzi tecnici necessari, la crescita del budget e del numero delle persone coinvolte. Ora nel libro paga siamo saliti a 3, ma occorre considerare anche i numerosi collaboratori che contribuiscono alla realizzazione dei contenuti. Il risultato oggi è una radio on demand che ha assunto le caratteristiche di una singolare miscela di reportage e creatività sonora. Ecco, mi pare che tu abbia in qualche modo già risposto anche alla seconda domanda che volevo porti, che atteneva al sistema di finanziamento della radio. E a questo punto forse possiamo approfondire il tema della vostra totale libertà d'azione, una libertà rispetto ai modelli di business che normalmente imprigionano in regole definite gli autori della radio tradizionale. È vero, noi non abbiamo adottato alcun formato. Si tratta di una radio deliberatamente non commerciale, potrei dire persino anticommerciale, nel senso che non esiste pubblicità. Infatti siamo interamente finanziati dal servizio pubblico, cioè dai telespettatori francesi di Arte TV. La conseguenza di questa assenza di formati è che, ad esempio, quando realizziamo un reportage non sappiamo in anticipo quanto tempo durerà. E la questione del tempo normalmente è una regola rigida in televisione. Di solito il caporedattore di un telegiornale ti impone di comprimere il tuo servizio in 30 secondi o in 2 minuti, e non è certo il nostro caso. L'altra novità introdotta da Arte Radio è che abbiamo stabilito un criterio di creazione sonora che non prevede commenti. Non ci sono giornalisti che presentano gli argomenti. Nessuno degli oltre 600 servizi che abbiamo pubblicato contiene voci di commento dall'esterno. Se c'è una voce, può essere quella del protagonista del servizio, una voce molto personale, come accade nei diari sonori. Un buon esempio può essere il diario di una giovane professoressa di periferia, dove ovviamente l'unica voce di commento è la sua, mescolata ai suoni della sua vita, che poi sono le voci dei suoi allievi, i rumori della scuola, eccetera. Bonjour, asseyez-vous, merci. Au début, j'avais peur d'une classe de troisième qui est une classe uniquement constituée d'élèves très en difficulté, en retard, fâchés définitivement avec l'école, qui en plus n'ont pas de projet pour plus tard. Lo scopo di questa scelta è quello di mostrare che il suono è una forma di scrittura. La radio è un linguaggio, è un'arte. Vogliamo riscrivere i criteri fondamentali della creazione radiofonica, abolendo le introduzioni, i commenti esterni, la musica, ma conservando le parole dei protagonisti, le voci, i rumori della città e della vita. È questa alleanza tra le voci e i rumori che permette di creare le immagini e le emozioni nella testa dei nostri ascoltatori. Ecco, a ben vedere questo approccio di Arte Radio sembra riflettere lo sguardo un po' obliquo sulla realtà tipico del canale televisivo di Arte e del sistema Arte nel suo complesso. A questo proposito forse potremmo azzardare che in definitiva Arte Radio non è un vero e proprio medium, non prevedendo il ruolo di mediazione del giornalista o del commentatore esterno, e che potrebbe invece collocarsi a metà strada tra l'arte e la documentazione sonora. No, direi che Arte Radio ha ancora un importante ruolo di mediazione, perché in verità siamo molto attenti alla forma della realizzazione e non intendiamo restituire il suono allo stato grezzo. C'è sempre un grosso lavoro di montaggio, di missaggio, che per l'autore sono strumenti importanti per esprimere il proprio punto di vista. Magari è più il punto di vista di un autore che non quello di un giornalista, ma in definitiva si tratta sempre di raccontare una storia da una certa angolazione, un'angolazione che è sempre piuttosto esplicita. Di sicuro non vogliamo essere percepiti come autori alla ricerca di una obiettività giornalistica di maniera. Riassumendo, possiamo dire che siamo per metà autori, per metà giornalisti. In ogni caso ci sentiamo distanti dalla creazione sonora pura, come accade per certe installazioni sonore che si possono trovare nei musei o nei festival. C'è sempre un preciso riferimento alla realtà, a un fatto di attualità, a un fenomeno sociale. Una domanda circa le due importanti novità che avete introdotto recentemente, e cioè la trasmissione in podcasting e l'adozione delle licenze Creative Commons. Si tratta di scelte piuttosto radicali e vorrei chiederti, sono innovazioni che si giustificano solo con ragioni tecniche o ci sono anche motivazioni, per così dire, filosofiche? Vorrei sapere qualcosa sulle ragioni tecniche, ma anche filosofiche, se c'è, di questi scelte. Naturalmente ci sono precise motivazioni di tipo filosofico. Fin dall'inizio i nostri suoni erano liberamente scaricabili su internet. Inizialmente era semplicemente un modo per rendere la vita più facile ai nostri ascoltatori. Poi ci siamo detti, dobbiamo dare una veste legale a questa funzionalità. Ci siamo guardati intorno e a un certo punto ci è apparso evidente che le licenze Creative Commons fossero lo strumento più adatto al nostro lavoro. Ci sono naturalmente delle condizioni. I nostri suoni possono essere ridiffusi nell'ambito di sistemi non commerciali. È vietato trarne un profitto, ma siamo i primi a promuovere la circolazione di questi contenuti in ambito, ad esempio, educativo, nelle scuole. Ed è quello che sta accadendo in Francia e in altri paesi, dove i nostri programmi sono utilizzati nelle aule scolastiche. Per quanto riguarda il podcasting, è un fenomeno davvero sorprendente. Pensate che ogni mercoledì, quando tutte le nostre novità sono aggiornate nel feed RSS di Arte Radio, ci sono 15.000 persone abbonate che le scaricano sul loro lettore MP3. Se si considera che abbiamo cominciato solo 2 mesi e mezzo fa, possiamo parlare di un grande successo. Un successo che riguarda senz'altro la cosiddetta generazione MP3, vale a dire il segmento degli ascoltatori che si colloca nella fascia dai 15 ai 35 anni, ma che ha anche il merito di dimostrare che l'MP3 non è qualcosa da associare necessariamente alla musica, ai problemi della pirateria e dei diritti d'autore. Oggi molti ascoltatori ci scrivono per dirci che sono contenti di avere sul proprio lettore qualcosa di diverso dalla solita musica. Il podcasting sta diventando qualcosa di simile a quando riceviamo il giornale davanti alla porta di casa, tutte le mattine. C'è un numero crescente di persone che, dopo aver fatto la doccia ed essere uscite di casa, indossano le cuffie dell'iPod e ascoltano 20, 30, 40 minuti dei nostri nuovi programmi. Sylvain, forse possiamo chiudere la nostra chiacchierata con la domanda più breve e più diretta. Dove sta andando la radio? Beh, ci sono grandi sviluppi in corso, specialmente per quanto riguarda la presenza della radio su internet. E sono sviluppi che vanno sempre più nella direzione di ciò che noi di Arte Radio stiamo proponendo. Da una parte abbiamo la crescita di questa generazione MP3 che è indubbiamente affascinata dai suoni. Del resto c'è una progressiva democratizzazione dei mezzi per registrare e montare i suoni in formato digitale. Esiste il mini disc, esiste Pro Tools, e in qualche modo sta accadendo con i suoni qualcosa di simile a ciò che in ambito cinematografico accade con le videocamere digitali. Il risultato è che c'è una incredibile quantità di persone che vogliono lavorare con noi. Al tempo stesso c'è una gran voglia di esprimersi, i progetti di nuove radio sul web si moltiplicano. Inoltre, la combinazione del podcasting con i lettori portatili ha determinato una ulteriore evoluzione ancora più imprevedibile e interessante. La web radio oggi non ti costringe all'ascolto coatto davanti al computer e ti permette di ascoltarla in mezzo alla strada, in auto, in ogni momento della tua vita. Dal mio punto di vista, la radio ha sempre dato il meglio di sé in condizioni di mobilità, lontano dalla propria abitazione, lontano dal computer e dalla televisione che spesso sono concorrenti insuperabili. Ci sono invece momenti della vita in cui la sola fruizione mediatica possibile è proprio la radio, e con le tecnologie oggi a disposizione la radio on demand rappresenta lo sviluppo più naturale. Non c'è dubbio, non dobbiamo dimenticare che per la sua natura l'arte del suono ha una vocazione naturale all'ironia, al dubbio e all'immaginazione, mentre l'immagine tende all'autosaturazione, come accade per le immagini pubblicitarie e di propaganda. Con il suono, il tarlo del dubbio e lo stimolo dell'immaginazione sono sempre presenti. Questo fa della creazione sonora, a mio avviso, una forma di resistenza rispetto al modello dominante. E con questo si chiude il numero 2 di Pod Power. Tutte le puntate di Pod Power sono realizzate sotto licenza Creative Commons e sono consultabili sul sito podpower.splinter.com, dove troverete anche i link a tutti i media menzionati. La sigla di Pod Power è Dig dei Noise Units, e per i vostri commenti e suggerimenti sempre benvenuti potete scrivere a antoniocontent@yahoo.it. Buoni ascolti e alla prossima!